politici calabresi li abbiamo terminati. È il momento. Sono sotto torchio dall'austerità del governo Monti. Ma cari amici, il servizio di questa sera non incula il cittadino, ma bensì il mondo della musica. Signore e signori, il nostro diventa il ring della musica italiana. In collaborazione con la casa discografica dei Jalis, che ovviamente è fallita dopo fiumi di parole. Ecco a voi, capate, il ring delle uvole d'oro della musica italiana. Buonasera a tutti cari amici, benvenuti a questa versione canora di Capate. Iniziamo subito introducendo alla mia sinistra una delle voci più vecchie della musica italiana. Stalord, con 137 kg, misure 100, 100, 100, insomma un metro cubo. Come potete capire, è da Butti Cognac. L'aquila di Logonchio, colei che ci ha fatto urlare 100, 100, 100, 100, ovvero Ivo Zanicchi. Buonasera, gamba, ecco, anche la tua volta, io non ne capisco, senti che tu per entrare la scarpa a casa, no. E la cuova della conchio, sai che te fa? Te cagate sopra, qualche testa a me. Vabbè. Andiamo avanti. E finisce la sta cazzo di cosa spinnato. Presentiamo la nostra sfidante. La sfidante di Savecchia Gaggia Amata. Negli anni 80 tutti noi sognavamo una chi addentro con lei. Oggi sogniamo di accompagnarla in ospizio. Ciao la sa e di tappa la chiave. Signore e signori, una donna che ti arma questioni più ogni cosa. Puro sì, carabinieri e fermare la guerra e ti fermano con la patente in stato di ebbrezza. Ecco a voi, Loredana Bertè! Il mare c'è qui! Il buonanda su mi procurate una poche fomo! Io senza impollinazione non ci posso stare! Datemi un mascudo! Si calmi, signora Bertè, scusate. Ma che tenete? Che state sbagliando? Questo è il ring della musica italiana e questa sera dovete affrontare Ivo Zanicchi! E che ne fosse sa zicca? La grande Ivo Zanicchi! Ah sì, piacere, e perché non è morto? Guarda che sei psicopatica, ma ti sei visto lo specchio che sembra la consigliaggio e vedete che da blu verde, guarda tu sai zocchi in me. Comarito, coca cosa, perché ne tiene? E poi lo siamo messo in davina a manco morte. Bene, oh, ritorniamo nella legalità. Oh, che cazzo, è una musica italiana, noi pusher. Oh, parliamo della vostra carriera. Entrambe avete avuto successo nella musica. Chi ne entrambe chi è suo sto gli alberi, entrambe chi ne chi è riggia. Ma chi sono ne che rappresentano che il prezzo è giusto, capucendo pure che la faccia. Cendo, capro un buon girente, c'è la macchina così cendo e tutti i quadrelli vanno a fare cendo. Sì, l'ha fatta lunga, ma. Vabbè, frichiglio. Sì, mo se c'è pure il prezzo giusto, sa? Perché? Per te manna fango. Ah sì, ma tu sai cosa hanno tutte? Che? Oh cazzo! O ti spanzo qua, che te è morto, ma te vengi per la madonna! Fammi aggiustare i mutande! Ma tu sei bestia, regione cavatrota la sera t'hanno visto che facevo soccorso al posto di Lucano San Bernardo e vedete le coglie ste quozzi mondagni non ci romba c'è qua sti caos. Che porpeto per una predica, guarda tu sta cazza. Che ci vorrei mesci? Che ci vorrei? Mi stimolano di arrebbare. Che ci vorrei? In grazia che ne pagano. Ti ne ammasso Armando Stato. Non essere volgare l'ordine in merda, che se no le mani te trovano a voto. Fermi tutti, calma, veramente noi non paghiamo a nessuno. c'è crisi e il governo Monti ce la impone. Zero spese. E poi dovreste ringraziarci. Manca di penangigliotti, mi chiamano per cantare. Pure i soldi volete, ma per piacere. Io sapevo, mi pareva troppo strano questa cosa. È bravo cozze, poteva pagare. Ma io ho detto, ma come te in aglia, che 79 giorni sopra 80, la persiana è chiusa. Ma io mi rappresentavo comunque. Maro! Beh, che cazzo va trovando che succede? Che succede? No, ma scusate, che se non è previsto il gioco, però. Che cazzo ci fa? Ma non si accoglie nel caos? No, ma fammi capire un po'. Ma tu non è che fosse cogliata la faccisca, affe. Ma che stai dicendo? Come ti si può? Cate cogliata la faccisca, ti faccio un occhio come tu non da là. Ma non roba. Attimo il microfono, attimo il microfono. Che io pure sapevo che mi avete postato una cosa di pigli da pastigna che su scancina, per la bottiglia. Poi mi hai postato o me lo fai meccia stavolta. Geno! Non si vede io la pastiglia! Ma che la pastiglia mi sacate in più cosa i cartoni! Ma beh, ma come non ti chiedi in notturno? Calmi l'arbitro, sei giù io, cai, zomba! Il ex che aveva problemi. Ma che ti presento con cazzo! Guarda! Oh, ti fa presentare, ecco a voi, Genuzzi, Santa Fe! Che ne è so? Minchia, poi ecco. Non si sente bene, l'abbiamo fatta buona sta macchina mamma. Con chi che? A Maruccia mamma. Ma fermi! C'è il galoppo di salamenda sotto. Sotto meno ma su ordine arbitro. A c'è a lui sta mamma. Dopo c'è una possibilità. Sceglia. Veramente. O la pelo o la lapide. O pelo. come se si batte. Che a me la voglio me la. Che a me la minchio. Mina me. Geno, sei a ritto, buon viaggio, minchio. E perché a due è? A Rupolo. All'altro mondo, guarda. Ma sto morto. Ciao amore, ciao! Questo momento è una parola grossa! Io non mi do! Stavo sbrassando!